Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: continuerà il nostro viaggio con i numeri uno nel settore dei consumi, della grande distribuzione, non solo quella alimentare. Abbiamo avuto McDonald's, il gruppo Coin, OVS, Upim, oggi sarà la volta del gruppo Carrefour. Perché? Perché ci sono ancora notizie anche oggi sui consumi. E cerchiamo di capire da chi gestisce, da chi ha il polso quotidiano dell'andamento delle vendite, dei consumi. Non ha bisogno dell'Istat per sapere quanto stanno risparmiando o tirando la cinghia gli italiani. Dicevo, continuiamo a cercare di capire quali siano le sensazioni, cosa registrino appunto numeri uno di gruppi così importanti, di grandi catene della distribuzione. E oggi appunto toccheremo il tema dell'alimentare, anche perché Nielsen, che è da sempre l'osservatorio più importante per i consumi, anche i consumi di carattere alimentari, oggi è uscita con un rapporto in cui sostanzialmente viene confermato che c'è stata una frenata in tutti i consumi degli italiani. In questo caso mi riferisco proprio a generi di prima necessità o comunque tutto ciò che rientra sotto il gergo alimentare. Non solo una frenata, ma anche una modifica vera e propria del carrello della spesa. Ne parleremo in apertura. Ripeto, usiamo i dati aggregati, usiamo le statistiche, però usiamo anche il racconto di chi tutti i giorni lavora con le famiglie italiane e registra le loro difficoltà. Poi, come sempre, la borsa meno 0,85% in questo momento. Milano è iniziata in maniera diversa la settimana, perché Milano adesso è la borsa più negativa. Parigi guadagna lo 0,15, Francoforte lo 0,14, Londra meno 0,21, l'America è invariata. Su Milano pesa soprattutto il calo delle generali dopo il piano di riassetto annunciato oggi dall'amministratore delegato Greco. Anche di questo parleremo nel corso del programma. Meno 3,51% generali, meno 2,5% A2A, meno 2% Parmalat e anche Intesa San Paolo. Oggi sono tutte in flessione le banche, che molto hanno guadagnato, però lo ricordiamo sempre, da luglio è vero che erano ai minimi, ma hanno preso quasi il 70% di rialzo i titoli bancari italiani in media. Dicevo, Intesa San Paolo meno 1,95, Monte dei Paschi meno 1,81, e Popolare Emilia Romagna meno 1,60, Ubibanca meno 1,60, Prismian meno 1,70%, Finmeccanica meno 1,5%, Enel Green Power meno 1,30, come Enel stessa. L'1,20 lo perde anche il Banco Popolare e Eni meno 1,1%, il che vuol dire che quando gli energetici e i bancari, che da noi pesano molto sull'indice, sono negativi, difficilmente poi l'indice può essere positivo. Di positivo però tra i titoli c'è Fiat, soprattutto più 5,24%, e il salone di Detroit si è aperto oggi, varie dichiarazioni, c'è una conferenza stampa che inizia in questi minuti di Sergio Marchionne a Detroit. Salvatore Ferragamo più 4,80, Telecom Italia più 2,15, Azimut più 1,40%, Exor, la controllante di Fiat, più 1,08%. Parleremo anche del dato sulla produzione industriale diffuso oggi. Non è un buon dato, ahimè ce lo attendevamo. A novembre meno 7,5% rispetto a un anno prima, mentre meno 1% anche rispetto al mese prima. È il quindicesimo ribasso consecutivo nella produzione industriale su base annua. Vuol dire che da 15 mesi rispetto a un anno prima la produzione industriale continua a calare. Lo dico perché, ripeto, siamo in campagna elettorale, tantissimi temi toccati, però attenzione, poi temi che interessano le imprese, le famiglie, lo dico senza nessuna spocchia o senza voler sembrare immodesto, sono quelli che tocchiamo anche noi: occupazione, consumi, produzione, export, busta paga. Personalmente li vorrei vedere un po' più presenti nella campagna elettorale, al di là di slogan irrealistici, disparate, tipicamente elettorali. Comunque, per contattare, per scrivere al programma Facebook oppure il 349-238-6666 per i vostri appunto SMS. Oro e petrolio stabili, oro a 1667 dollari l'oncia, petrolio in leggero rialzo a 93,67 dollari al barile. Per quello che riguarda le notizie internazionali, Apple ha avuto un tonfo vero e proprio a Wall Street, è scivolato sotto la soglia dei 500 dollari per azione, a 498 dollari, ossia ai minimi da febbraio. Praticamente, secondo quanto riportano alcuni analisti, il gruppo Apple avrebbe dimezzato gli ordini per i componenti dell'iPhone 5, e quindi questa è una notizia che pone qualche ombra sulle vendite dell'iPhone 5. Faccio solo notare che dopo il record di settembre Apple ha già perso il 26% del proprio valore in borsa. Già ricordavamo il titolo Fiat, si è aperto il salone dell'auto di Detroit, quello più importante per quello che riguarda l'area dollaro. C'è un cauto ottimismo, ne parleremo anche nei prossimi giorni, però pesano l'anello debole, il vaso di coccio nelle vendite di auto è in questo momento l'Europa. Tutte le grandi case automobilistiche vanno bene nel resto del mondo tranne che in Europa. La General Motors comunque ha perso il primo posto al mondo come produttore, Toyota è tornata ad essere la numero uno a livello mondiale. Seconda a questo punto General Motors e terza la Volkswagen, 9 milioni di vetture vendute per Volkswagen nel 2012, 9 milioni e 700 mila quelle di Toyota, 9 milioni e 200 mila quelle di General Motors. E appunto sempre da Detroit si è saputo che anche Volkswagen ha fatto un record di vendita nel 2012, più 11,2%, oltre 9 milioni di auto vendute come ricordavamo, mentre Sergio Marchionne ha detto Fiat e Chrysler devono diventare una cosa sola, e l'acquisizione della quota di Weber nella casa automobilistica USA potrebbe diventare avvenire prima della sua quotazione. L'IPO, il collocamento, potrebbe essere fatto nei prossimi 9 mesi. Come va lo spread? A 262 punti base, direi stabile, non basso come la settimana scorsa, ma abbastanza stabile. E c'è una buona notizia sul debito italiano che sostanzialmente a novembre del 2012 ha toccato da un lato un nuovo record storico, ma a dicembre a 2.020 miliardi di euro il nostro debito, ma a dicembre dovrebbe tornare sotto la soglia dei 2.000 miliardi grazie al forte avanzo del settore statale. E però quello che ha contribuito a far crescere il nostro debito nei primi 11 mesi dell'anno sono stati soprattutto i 23 miliardi di euro dati a sostegno dei paesi dell'area euro in difficoltà. Questa quota include anche il Fondo per la Stabilità Finanziaria Europea e anche per il Meccanismo Europeo di Stabilità. Ma lo dico perché dovrebbero ricordarselo, scusatemi se polemizzo di nuovo, anche i paesi del nord Germania, ma anche i paesi scandinavi, l'Olanda, cioè l'Italia, oltre che non essere stata salvata, oltre che avere speso molto molto molto molto meno per salvare le sue banche durante la crisi, lo Stato italiano ha aiutato le banche per un totale di 4 miliardi e 4, la Germania ha dato come fondi statali alle banche 48 miliardi, la Gran Bretagna 104 miliardi e via così, la Francia 28 miliardi, per cui oltre a non aver avuto aiuti statali alle nostre banche, l'Italia è un contribuente attivo per i paesi in difficoltà, non è che abbia ricevuto aiuti, ha messo 23 miliardi. Lo dico anche perché, sempre in vista delle elezioni politiche, continuiamo a auspicare che qualunque sia il prossimo Presidente del Consiglio vada in Europa in maniera un po' più ferma a chiedere, assieme alla Francia, che ci starebbe, alla Spagna, politiche anche anticicliche, cioè che non aumentino la recessione in corso ma la contrastino. Sì, politiche di spesa, non ho nessun problema a dirlo, a fronte di controllo della spesa pubblica, di tagli del deficit, di riduzione del debito e di riduzione della spesa pubblica, si possono fare interventi europei che non aumentino il debito, infrastrutturali, quello che volete voi, però si esce con politiche anticicliche. Della produzione industriale a novembre, ho già accennato, parleremo nella seconda ora del programma, meno 7,6%. Ricordo solo che andare particolarmente male rispetto a novembre 2011 è stata la meccanica, meno 7%, l'abbigliamento e le calzature meno 5,5%, la chimica meno 5%, la farmaceutica meno 8%, l'elettronica meno 4,9%, l'alimentare meno 3,6%, i mezzi di trasporto meno 6,3%. Però potrebbe essere dicembre il primo mese, dopo 15 mesi di cali ininterrotti nella produzione industriale, il primo mese, dicevo, in cui potremmo tornare a vedere il segno più 0,4% è la stima del centro studi Confindustria per il mese di dicembre quanto a produzione industriale. Ancora le imprese, l'ultima indagine di Banca d'Italia sulle imprese. Le imprese italiane sono sempre più pessimiste sulla situazione economica. A fine 2012, secondo la Banca d'Italia, la quota di imprese che ha segnato un miglioramento nell'attività anche mese su mese si è quasi dimezzata, solo il 3,8% rispetto a settembre, mentre è salita al 57% contro il 50% di settembre. Le imprese che hanno registrato un peggioramento. Dovrebbe allarmare anche il numero di imprese che dicono di poter avere problemi di liquidità. Liquidità vuol dire non solo investimenti, vuol dire anche pagamento degli stipendi, delle spese correnti. Dal 24% delle imprese inserite dalla Banca d'Italia a settembre siamo passati al 28,5% di imprese che ritengono di poter avere un problema o di ritenere insufficiente la loro posizione di liquidità. Volete sapere di generali? Ne parleremo dopo, c'è un approfondimento apposito. Comunque l'amministratore delegato Mario Greco sostanzialmente ha escluso tagli al personale, ha annunciato un calo dei costi per 600 milioni di euro entro il 2015, un utile operativo a 5 miliardi e nessun abbassamento dei dividendi. Ci sarà un piano per avere ancora maggiori ritorni. Devo dire, appunto, il mercato non sta apprezzando, cioè meno 3,23% in questo momento le generali. Qualche notizia dalla crisi. Ce l'abbiamo anche oggi, sono notizie molto diverse, una riguarda gli Stati Uniti, l'altra riguarda invece l'Italia, altri indicatori sulle difficoltà in cui vivono le famiglie italiane. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Potremmo dire risanare è possibile, perché qualcuno di voi ricorderà lo stato della California, che da solo vale il PIL dell'Italia. Insomma, la California, guidata da Arnold Schwarzenegger a suo tempo, Schwarzenegger lasciò, diciamo che è andato meglio come attore che come culturista, che come governatore della California, lasciò un buco memorabile. Profondo rosso, lo raccontammo anche noi, la California solo con un crack, se fosse stato uno stato sarebbe quasi tecnicamente fallito e via così. Ebbene, il nuovo governatore, che è Jerry Brown, democratico, ha vinto nel 2011, ha preso il posto appunto di Schwarzenegger, ha presentato al Parlamento statale di Sacramento un budget da 97 miliardi e mezzo di dollari che lascia 785 milioni di attivo sul tavolo per il prossimo anno fiscale, avendo aumentato gli investimenti nell'istruzione e nelle spese per la salute. Ora, vedete, come fanno a aumentare gli investimenti per l'istruzione e per la salute? C'è un incremento degli introiti, tassazioni ma non solo, che ha permesso di cancellare il buco da quasi 2 miliardi stimato solo pochi mesi fa. Brown ha aumentato le tasse, ha fatto approvare l'aumento delle tasse nel 2012 ed è per la prima volta da quando è iniziata la recessione che la California potrà iniziare l'anno senza, diciamo, un profondo rosso di bilancio, tant'è che Brown ha proposto investimenti per 3 miliardi di dollari per le scuole e per 350 milioni di dollari invece per l'assistenza sanitaria, espandendo ulteriormente quello che era già la riforma sanitaria di Barack Obama. Quindi si può riformare il bilancio, complimenti a Jerry Brown, che invece che un buco da 2 miliardi adesso ha un attivo da 785 milioni di euro. E poi invece veniamo all'Italia. Il 2012, che sia stato un anno terribile per i consumi, lo si capisce anche nel mondo della pubblicità dalle sponsorizzazioni sportive. Sostanzialmente le sponsorizzazioni sportive nell'anno che si è appena chiuso sono calate a 1.288 milioni di euro, quasi 100 milioni in meno rispetto all'anno precedente, l'8,2% di calo. Nel frattempo, e questo è anche un segnale perché chiaramente meno le società, i gruppi, le imprese, le aziende hanno soldi, meno anche investono in sponsorizzazioni, c'è poco da fare. Nello stesso tempo, e qui arriviamo al tema di apertura del programma, gli italiani stanno anche sprecando meno, 400, e questa è una buona notizia, 400.000 tonnellate in meno di rifiuti prodotti in Italia nel 2012, 400.000 tonnellate in meno, si spreca meno. Per carità, si consuma anche meno, ma probabilmente si spreca meno. Meno 4%, quindi rifiuti prodotti. La flessione a Roma è stata di 50.000 tonnellate di rifiuti in meno, meno 4%. A Milano di 27.000 tonnellate in meno, a Napoli del 2,2% il calo, a Firenze il calo più forte del 6% quasi. La notizia di oggi su Sole 24 Ore è una delle poche buone notizie, dei pochi buoni effetti di questa crisi, che è ormai una crisi strutturale, e noi torniamo a parlare di quello anche perché pure oggi sono usciti nuovi dati sui consumi, o meglio i non consumi degli italiani. Parliamo di consumi perché a conferma di quanto già diffuso nelle ultime settimane da Confcommercio, Coldiretti e Istat, anche la grande distribuzione organizzata, e quindi le catene di supermarket, ipermercati, hard discount, segnala un calo dei volumi di vendita nel 2012, meno 1,5%. Sostanzialmente gli italiani hanno speso meno per circa 1 miliardo e 100 milioni di euro su prodotti confezionati, in un periodo in cui la fiducia dei consumatori è scesa a 46 punti, sono 6 punti in meno rispetto al 2011. E fa notare la Nielsen, che da sempre è l'osservatorio privilegiato sui consumi, che ormai il calo dei consumi non si colloca più nella cosiddetta quarta settimana del mese, coinvolge, ahimè, tutte le settimane dell'anno, con acquisti che nel 2012 sono risultati sempre e perennemente in calo. E oltre a ridurre la quantità e quindi la spesa dei prodotti acquistati, si modifica il carrello stesso della spesa. Gli italiani acquistano sempre più ingredienti di base, già lo ricordammo anche la settimana scorsa: farina, uova e zucchero, pollame più 10% quasi in volume, il pollo, salumi più 6,6, conserve più 6,7, tagliano tutto quello che obiettivamente è più caro, i dolci meno 4%, le carni rosse, quindi quelle anche di pregio, meno 9%, il pesce meno 9,5%, il pane fresco meno 13%. Secondo la Nielsen, non secondo la Caritas, secondo la Nielsen, versa in stato di povertà l'11% delle famiglie italiane, e invece quasi 28 famiglie su 100, oltre i 5 membri di famiglia, hanno difficoltà economiche e quindi versano in una situazione di povertà, mentre sono 21 famiglie su 100 per la popolazione che riguarda chi ha più di 65 anni. Ecco perché, alla luce di questi dati diffusi appunto oggi dalla Nielsen, è arrivata una notizia che non so se dire buona per i consumatori, meno buona perché indica una difficoltà oggettiva del, anche della grande distribuzione. Il gruppo Carrefour Italia, che è uno dei principali gruppi operanti nella grande distribuzione in questo paese, è il più grande gruppo europeo nella grande distribuzione organizzata, secondo al mondo dopo Walmart, con 82 miliardi e 800 milioni di fatturato nel 2011 a livello mondiale. In Italia da solo Carrefour rappresenta quasi il 7% del fatturato complessivo. Dicevo, il gruppo Carrefour ha lanciato un'iniziativa che si rivolge sostanzialmente, anzi specificatamente, agli cosiddetti over 65, a chi ha più di 65 anni e alle famiglie con più di 5 membri o con almeno 5 membri. È un'iniziativa che va a tagliare l'IVA. Ne parliamo con l'amministratore delegato di Carrefour Italia, Giuseppe Brambilla di Civesio. Buonasera. Buonasera. Dunque, voi avete, alla luce anche dei dati Nielsen di oggi, annunciato che rimborserete l'IVA per tutto un insieme di prodotti per le persone che hanno appunto più di 65 anni o hanno almeno sono almeno in 5 nello stato di famiglia, è così? Sì, è vero, effettivamente condividiamo l'analisi di Nielsen, che è un'analisi ex post. Noi tutti i giorni vediamo nei punti vendita i nostri clienti e ci accorgiamo che spesso hanno difficoltà a far quadrare i loro conti di spesa, difficoltà a portare a casa dei prodotti a costi sostenibili. Per questo abbiamo deciso di rivolgerci ad alcuni di loro, in particolare a coloro che hanno più di 65 anni e le famiglie numerose, sicuramente un gruppo di persone estremamente importante nel nostro paese. Abbiamo lanciato una campagna che prevede di tagliare l'IVA, per cui l'IVA su alcune categorie di prodotti. L'IVA è sulle categorie che abbiamo scelto, che sono macelleria, pescheria, frutta e verdura, salumi, formaggi e pane. L'IVA è in parte al 4 e in parte al 10, e con un acquisto medio lo sconto che può essere portato a casa, il rimborso in cassa dell'IVA, è di circa il 7%. Quindi anche la macelleria, cioè potremmo fare un titolo: per evitare la macelleria sociale, riduciamo l'IVA sulla macelleria naturale. Però al di là della battuta, per sdrammatizzare, in realtà il tema è serio ed è serissimo. Abbiamo annunciato la settimana scorsa un ciclo di interviste con gli amministratori delegati di chi dei grandi gruppi che lavorano sui consumi. Ha iniziato venerdì scorso Stefano Beraldo, che è amministratore delegato del gruppo Coin, OVS e UPIM, sul fronte, diciamo, chiaramente dell'abbigliamento, dei consumi di fascia medio, bassa, medio, alta, ma dell'abbigliamento. Oggi continuiamo con lei, collegandoci anche alla notizia del giorno per quello che riguarda invece la grande distribuzione nel settore alimentare. Ma dicevo, voi avete fatto una stima di quanto potrebbe essere, avendo voi tutto un database sui vostri clienti, sulle carte fedeltà e quant'altro, quanto potrebbe essere il risparmio medio? Sì, noi stimiamo per i senior, come li chiamiamo, quindi quelli che hanno più di 65 anni, un risparmio che può andare da 150 a 200 euro all'anno, in ragione di anno, e per una famiglia da 350 a 500 euro. Visto che si stimano gli aggravi di costi vari, balzelli e canoni in Italia, in aumento di circa 500 euro all'anno per una famiglia, riteniamo che questo sia un ristoro significativo. E in questo senso Carrefour ha fatto un forte sforzo, che si aggiunge a tutto quant'altro facciamo, promozioni, sconti e così via, è una cosa completamente diversa, ecco, per venire incontro alle famiglie. Ma questo volevo capire, perché con il massimo rispetto, ma esiste anche il marketing nella vita, non è mica da esecrare, però cos'è, una forma di promozione mascherata o la promozione che voi avete sui prodotti resta comunque? Cioè, il mio sospetto quando lei parla di vabbè, ma magari avevate tante scorte di magazzino sui prodotti freschi ed è un modo come un altro per cercare di liberarvene. Guardi, noi abbiamo circa 3 milioni e mezzo di clienti, coloro che entrano in questa operazione sono circa 900.000, quindi sicuramente non tralasciamo, sarebbe suicida, i 2 milioni e 600.000 clienti che rimangono, che sono ottimi clienti, per cui le promozioni e tutto il resto va assolutamente avanti. Questo è uno sforzo in più, uno sforzo straordinario che facciamo perché c'è questa crisi. Le confesso che col mercato di 3 anni fa forse non ci avremmo neanche pensato. È oggi che crediamo che un'impresa importante deve mettere al servizio della sua struttura e fare uno sforzo per aiutare i clienti almeno finché dura questa fase difficile. Ecco, vedo agli SMS al 349-238-6666 che ci chiedono ma come funzionerà, cioè perché uno potrebbe andare sull'over 65, c'è chi li porta bene, c'è chi li porta male, chi li porta male magari neanche 60 è avvantaggiato, però al di là della battuta uno come fa ad avere lo sconto? Dichiara, per l'età anagrafica è più facile, immagino basti un documento, ma ogni volta deve mostrare il documento. Per quello che riguarda invece la famiglia di almeno 5 membri, si porta tutta la famiglia a seguito? Abbiamo cercato di fare tutto il modo più semplice possibile. Metteremo una carta per gli over 65 e una carta per le famiglie. Per gli over 65 evidentemente basterà una volta un documento, la carta viene consegnata e questa con un codice a barre attiva in cassa lo sconto, per cui nello scontrino verrà semplicemente IVA 10, IVA 4, l'ammontare rimborsato. Per quanto riguarda le famiglie, 5 persone conviventi nella famiglia, lo stato di famiglia, e la legge lo consente, ovviamente anche un'autodichiarazione. Chiaro, quindi una volta sola. Non c'è il rischio, mi scusi se sono un po' tignoso, che diventi un po' come la carta povertà che fu lanciata dal governo Berlusconi a Tremonti, che poi diventava quasi un elemento, mi passi il termine, di vergogna sociale, cioè uno tira fuori la carta, per carità, se poi non deve risparmiare chi se ne frega, ma che venga quasi bollato, come lo vedi, quello è uno che ha fatto richiesta perché è in difficoltà economiche? Guardi, questa è l'iniziativa che è rivolta a chiunque, quindi qualsiasi persona che abbia compiuto più di 65 anni, perché appunto vogliamo aiutarla, perché sappiamo che le persone un po' più avanti negli anni spesso a loro volta aiutano anche i figli, le famiglie e così via, così come le famiglie numerose, chiunque può accedere, indipendentemente dal reddito assolutamente. Quindi non credo che ci sia una classificazione particolare, è aperto a tutti e si aggiunge alle altre operazioni. Assomiglierà una classica carta fedeltà, quelle che usano tutti. È una piccola carta colorata in verde per gli over 65 e in arancione per le famiglie, ha un codice a barre, si attiva in cassa, quindi è una cosa estremamente semplice. Ecco, venendo invece, voi avete, lei diceva prima, le confesso che se non fossimo in questa situazione, perché voi ci perdete qualcosa, immagino, no? Beh, questo oggi è uno sforzo di Carrefour per la situazione particolare in cui noi oggi siamo. È rivolto ai nostri clienti e quindi è effettivamente uno sforzo che noi facciamo, sul quale abbiamo messo un investimento, perché crediamo che un'impresa in questo momento deve aiutare a far riprendere i consumi. Consideri che i prodotti oggetto di questa agevolazione sono prodotti all'80% di aziende italiane, di aziende dell'agroalimentare, spesso piccola media impresa, quindi indirettamente daremo una mano allo sviluppo dei consumi, e di consumi che abbiamo bisogno per rilanciare l'occupazione nel paese. Non vediamo molte altre vie d'uscita. No, su questo non ci sono dubbi. Quindi le diceva, vabbè, posso capire, però se avrete fatto anche un calcolo, immagino, se ritenete che tra i soldi che perderete, diciamo in maniera un po' brutale, e magari i nuovi clienti che avrete, riuscite ad andare in pareggio? Guardi, noi ogni volta che facciamo delle iniziative commerciali, come noto ne abbiamo tantissime a favore dei nostri clienti, facciamo indubbiamente un conto e analizziamo in maniera molto precisa gli eventuali ritorni. In questo caso abbiamo fatto un investimento sui nostri clienti, e sicuramente se poi ci sarà un passaparola, verranno altri, ben venga, li accoglieremo volentieri, ma non è per questa noi una campagna, una pubblicità, non per nulla, a parte qualche discorso, come oggi la ringrazio di essere qua ospiti e alcune notizie sulla stampa, noi non investiremo budget pubblicitario su questa operazione. Cioè non farete la pubblicità alla McDonald's? No, perché non è una campagna stampa. Non facciamo pubblicità su questa operazione, è un servizio che vogliamo offrire ai nostri clienti, e se qualcun altro vorrà venire, tanto bene. No, perché tra gli amministratori delegati che sono venuti, oltre a Stefano Beraldo, sempre recentemente anche l'amministratore delegato di McDonald's, per le polemiche anche sulle 3.000 assunzioni, loro invece hanno fatto una scelta di pubblicizzare quell'iniziativa. Voi non farete pubblicità su questo, cioè sarà un'iniziativa interna al gruppo ovviamente Carrefour. Ne parleremo con i media, nei negozi, perché possa essere fruita, ma non intendiamo di fare non lo volete cavalcare le campagne le facciamo sulla promozione, la pubblicità che facciamo come sempre. 17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla borsa, chiusura con un meno 0,64%, vorrei concludere l'intervista con il numero uno di Auchan Italia. Prendiamo spunto dai dati Nielsen di oggi sul calo drammatico dei consumi, l'ennesima conferma, e dall'iniziativa che Carrefour ha lanciato, e quindi levare l'IVA dal 4, l'IVA è al 4 al 10% nei generi alimentari, gli elencava prima l'amministratore delegato, levare l'IVA per chi ha sostanzialmente più di 65 anni da un lato e almeno 5 componenti in famiglia. Appunto, con il ministro delegato stavamo ragionando del, al di là della vostra iniziativa, che ho capito benissimo non è marketing, non è promozione, perché la farete in altri modi. Che tipo di immagine lei registra, o meglio di dati, molto più giorno per giorno sulla contrazione dei consumi degli italiani. L'impatto più significativo, parlando di alimentare, è effettivamente il continuo sforzo da parte dei clienti di portare a casa un certo numero di prodotti, un certo numero di calorie, diciamo se vogliamo, di nutrimento a prezzi sempre più bassi. Oggi un qualsiasi prodotto alimentare può essere comprato a prezzo 30 centesimi o anche 80 dentro un prodotto esattamente molto simile, voglio dire, e quindi il cliente fa un grosso sforzo per cercare di spendere meno. Questo chiaramente impatta poi sui conti delle imprese, perché in termini di valore si vende meno con gli stessi pezzi. Questo è il grosso sforzo sull'alimentare. L'alimentare, come tutto, ha sofferto in quantità e soprattutto in degrado dei valori. È andato meglio le ultime 10 giorni attorno a Natale, la stampa l'ha già riportato, ma questo in parte anche perché la ristorazione, noi abbiamo con un'azienda di cash and carry che si occupa di ristorazione, invece ha sofferto, e quindi c'è stato un passaggio, se vogliamo, dalla ristorazione. Non andando al ristorante, traduco, uno ha cucinato di più a casa. Questo in una decina di giorni. Ecco, su questo però, mi scusi, vorrei capire nel dettaglio, cioè questo calo e questa difficoltà voi la vedete spalmata più o meno in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale? Grosso modo sì, sicuramente alcune parti del paese, una parte del sud ha una maggiore sofferenza, però i grandi trend di fondo sono gli stessi sull'alimentare, sicuramente. Perché per esempio Beraldo ci diceva che al sud, per quello che riguarda Coino, VS e anche Upime, la situazione è drammatica. Cioè proprio di... Sì, noi condivido l'analisi di Beraldo per il tema non food. Il tema non food è meno essenziale nei consumi, certo. E quindi nel non food le contrazioni sono state più severe. Il non alimentare, diciamo. Certo. Peraltro in alcuni casi sono state registrate anche discrete performance, come successo a noi per esempio nel giocattolo, però a fronte di significativi investimenti, perché chiaramente i giocattoli piace sempre regalarli, però la ricerca del prezzo e dell'occasione è spasimodica ed è anche razionale che il cliente lo faccia. E questo, siete, lei da quanto è in Carrefour? Io sono in Carrefour da più di 10 anni. Ecco, e prima vi è immagino da altri settori, ma comunque nello stesso ambiente. Sempre diciamo di largo consumo. Sì. Lei l'ha mai vista una contrazione o difficoltà di questo genere? Diciamo che noi abbiamo visto nel largo consumo alimentare, per esempio, una difficoltà e una contrazione attorno ai primi anni 90, nel 92-93, ma è un ciclo che in 2 anni è stato superato. Questo, ahimè, è un ciclo persistente. È un ciclo persistente su cui bisogna evidentemente lavorare. C'è un po' di ristrutturazione strutturale. Ci sono anche dei dividendi positivi di questa crisi. Ad esempio lo spreco. Lo spreco è diminuito presso le famiglie. Anche gli operatori sono molto più attenti a diminuire lo spreco. Noi stessi abbiamo messo in atto alcune operazioni come acquisto a prezzi scontati del 50% dei prodotti, lo yogurt piuttosto che la mozzarella, che stanno scadendo, e i clienti lo hanno apprezzato. Quindi c'è anche del dividendo positivo da questa crisi. Però dobbiamo lavorare per uscirne, perché scivolando ogni anno scendiamo un gradino, e questo ormai succede da un po' di anni. Quindi la risposta sostanzialmente no, neanche nel 92 durò due anni. Qui siamo a dunque 2013, iniziamo il quinto anno di crisi. Quanto riuscite a durare in questo modo? Beh, sicuramente Carrefour cerca di fare la sua parte. Non solo voi. La distribuzione in generale, alimentare in particolare, cerca di fare la sua parte. Io credo l'abbia fatto. Quando Nielsen parla di riduzione dello scontrino medio, significa essenzialmente vendere grosso modo le stesse quantità a prezzi più bassi. Qual è il problema? Il problema è che in questo paese, nella nostra situazione, ci sono ancora tanti mercati in cui ogni anno, leggo con dispiacere, aumenti di prezzi che non dico vanno oltre l'inflazione media del paese, ma vanno ovviamente ben oltre il reddito disponibile delle famiglie. Per esempio l'energia, per non citare poi le assicurazioni, per non citare oggi gli aumenti delle poste e così via. Allora qualcosa noi auspichiamo, che lo stesso grado di trasparenza che oggi il cliente trova nel confrontare i prezzi a Carrefour piuttosto che da altri operatori. Non è mistero che un pacchetto di spaghetti e una bottiglia di whisky è facilissimo fare confronti. Bene, lo stesso grado di trasparenza arrivi anche in tanti altri mercati, perché è dalla trasparenza e dal confronto che inizia il primo passo per la liberalizzazione dei mercati. Sì, ma mi faccia capire, quando dico quanto reggiamo, nel senso che voi potete anche continuare, voi e i vostri concorrenti della grande distribuzione, a lanciare iniziative, appunto, magari verrete seguiti, io me lo auguro per i clienti, anche da altri sull'IVA e la promozione, è fresco, però il mio timore è questo: se la crisi continua a invitarsi, cioè se non si riesce a liberare un po' di risorse sulla busta paga, cioè su chi sicuramente intanto non è un evasore e comunque controllando anche l'evasione, e aumentano i costi indiretti, cioè le addizionali IRPEF locali e regionali, i costi del gas, della bolletta e quant'altro, io non non, cioè, lei si è fatto un calcolo, noi facciamo questa iniziativa, però poi se restiamo da soli quanto reggete? Allora, certamente pensiamo di tenere questo mercato pure con grandissima difficoltà, con un grande sforzo, però è vero che se non vengano entro certi termini liberalizzati alcuni mercati cui incrementi di costo sono estremamente significativi e che volenti o nolenti non riusciamo a ributtare sui prezzi, sicuramente la situazione diventerà complicata. Quindi il tema di alcune liberalizzazioni è estremamente urgente nel nostro paese. Lei quando incontra, insomma, Carrefour è il secondo gruppo mondiale dopo Walmart e avete una percezione anche a livello europeo, vorrei limitarmi all'Europa, all'area euro, ma lei quando incontra i suoi colleghi, cioè gli amministratori legati di Carrefour Francia, Spagna, Germania, che indicazioni raccoglie? Cioè anche lì si soffre, perché mi interessa il dato al di là del dato statistico, mi interessa il dato molto molto più empirico. Beh, ogni paese ha sicuramente le sue difficoltà, i suoi punti di forza. Ad esempio la Spagna ha attraversato crisi molto importante, oggi ancora in una importante difficoltà, e quindi sicuramente alcuni dei temi che oggi stanno sviluppando in Italia forse in Spagna sono già passati negli anni passati. Il mio auspicio è sicuramente di riuscire in Italia a raddrizzare la situazione e non trovarci in situazioni peggiori. La Grecia è stato sicuramente un mercato notoriamente più complicato, in linea generale il nord Europa si difende meglio. E la Francia, la casa madre? La casa madre, beh, non vorrei commentare sui dati della casa madre, no, ma dico, usciranno delle cifre e così via. Mercato del Francia è un mercato che finora si è retto meglio di quello che è il mercato del sud Europa in generale. Ma questo secondo lei perché la Francia ha delle politiche di welfare più che rendono per una famiglia poi con figli? Quando abbiamo parlato di famiglie numerose, abbiamo parlato anche con le associazioni per lanciare questo tipo di operazione, è chiaro che l'aiuto che viene dato in Francia alle famiglie numerose, quindi se vogliamo la natalità, è estremamente più forte che in Italia. C'è sicuramente un tema di risorse, però nell'allocazione delle risorse io credo che un investimento sulla natalità, un investimento sulla crescita, un investimento per rendere più giovane la nostra società è forse una delle prime cose da fare. Senta, ma se dovesse continuare così potreste anche abbandonare l'Italia, cioè se nonostante le iniziative questo paese non si risolleva quest'anno, l'anno prossimo? Carrefour è in Italia da vari anni, abbiamo 21.000 collaboratori in Italia, 1.200 negozi, la settimana scorsa abbiamo rilevato 6 cash and carry, una piccola attività, comunque un'ottantina di miliardi di fatturato e 220 persone che avevano un certo problema, quindi siamo qua per lavorare e aiutare il paese senza dubbio. E quindi no, non pensate di chiudere o ridurre la vostra presenza in questo paese? Abbiamo appena fatto un investimento. Dove? In Lombardia, acquisendo 6 cash and carry di Lombardini, e quindi stiamo concretizzandole in questi giorni e quindi siamo sicuramente qui per lavorare nel paese. La sua ricetta quindi, perché noi leghiamo questo anche alla campagna politica, so che la politica si occupa di temi molto più alti, ma noi siamo così prosaici, ci occupiamo della vita quotidiana e dei consumi quotidiani. La sua ricetta, cito l'ultimo caso, Beraldo disse beh, aumentiamo piuttosto la tassazione sugli imprenditori ma riduciamo questo benedetto cuneo fiscale in busta paga, cioè quanto costa un dipendente e quanto resta in mano al dipendente rispetto a quanto non costi all'impresa. La sua mi sembra di dire liberalizziamo e eliminiamo altre voci che vanno a erodere continuamente il potere d'acquisto? Sicuramente questa è una grossa componente. Il nostro mercato, che è un mercato estremamente competitivo, anche grazie alla facilità di informazione, sicuramente ha aiutato i clienti questi anni. Altri mercati sono in teoria competitivi, però onestamente il livello di informazione non è sufficientemente trasparente per arbitrare certe scelte. Questa è una strada. Il punto che diceva Beraldo è assolutamente condivisibile. Chiaramente il tema del costo del lavoro è evidente che oggi all'impresa il lavoro costa moltissimo e nella tasca dell'individuo rimane molto poco. Dobbiamo sicuramente fare ogni sforzo per rimettere dei quattrini in tasca ai nostri clienti, perché è l'unico modo per stimolare i consumi e la domanda. Questo sicuramente va fatto. Ma se io fossi un politico, se fossi il prossimo presidente del Consiglio, cosa che non sarò, quindi vada tranquillo, qual è la prima cosa che mi chiederebbe? Beh, sicuramente tra le due cose le chiederei uno sforzo per rimettere delle risorse in mano alle famiglie. Questa è sicuramente la prima necessità per far ripartire i costumi sul mercato domestico, per aiutare le imprese che hanno forte export, che tengono sicuramente, e per quindi rilanciare l'occupazione. Credo che questa sia la prima assoluta priorità oggi nel Paese. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa. Ancora sull'iniziativa di Carrefour, levare l'IVA per tanti generi alimentari per chi ha più di 65 anni o almeno una famiglia di 5 componenti. è chiaro che la carta è nominale, adesso non iniziamo a scherzare, non è che la carta dell'over 65 la usa giovane così. Dopodiché cerchiamo di non fare sempre i furbi, l'iniziativa è importante, ma a noi quello che interessa da giornalisti è che un'iniziativa del genere, lo ha detto chiaramente l'amministratore delegato, non l'avrebbero mai presa tre o quattro anni fa. La situazione per la grande distribuzione è così difficile perché si accorge tutti i giorni che tu venda vestiti o generi alimentari, in questo caso poco cambia, delle difficoltà delle famiglie italiane. È un segnale importante, a mio avviso aveva ragione l'amministratore delegato nel dire: certo che se tu continui a erodere potere d'acquisto non solo con le tasse, con le addizionali IRPEF e con quant'altro, ma anche con tutte quelle spese non messe in concorrenza, bollette elettriche, gas, luce, acqua, assicurazioni, dove la concorrenza si vede con fatica, hai voglia a fare iniziative come queste, tu comunque continui a erodere il potere d'acquisto soprattutto delle fasce più deboli. Però per oggi basta, noi continueremo con il giro di interviste invece ai numeri uno di grandi catene. Adesso la borsa. Borsa oggi negativa, devo dire che per la prima volta da due settimane quasi Milano è la peggiore, meno 0,60%, Parigi invariata, Francoforte più 0,20%, Londra meno 0,22%, l'America invariata anch'essa, euro sempre relativamente forte a 1,3364 sul dollaro. Borsa negativa per via delle generali, oggi prese il piano industriale, ma ne parliamo dopo le 18, meno 3%, molto bene invece Fiat, più 6,25%, Marchionne da Detroit ha detto che l'IPO, il collocamento in borsa di Chrysler si potrebbe fare entro 9 mesi e soprattutto che nulla osta la fusione, anzi dovrebbe essere una cosa naturale tra Chrysler e Fiat. Come sempre la facciamo la borsa con Radio Corriere sulle 24 ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, Tokyo oggi era chiusa per festività, di Apple che è crollata in borsa abbiamo già detto per via di ordinativi per i componenti dell'iPhone 5 dimezzati, ma veniamo a noi, Fiat e Ferragamo. Fiat più 6,25, Ferragamo più 4,70. Per quanto riguarda Fiat, tu hai già anticipato alcuni dei motivi della crescita di oggi, crescita che ha interessato Fiat ma non invece Fiat Industrial, che ha perso il 2%, ne aggiungo un altro, cioè le indiscrezioni, peraltro sostanzialmente confermate le parole dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, secondo cui Fiat starebbe per chiudere un accordo in Cina con il gruppo Guangzhou per la produzione di Jeep in Cina. Secondo gli operatori è una notizia positiva perché il marchio Jeep può avere spazi di crescita in Cina, è ancora poco sviluppata l'area Asia-Pacifico per quanto riguarda Fiat, inoltre un investimento in partnership sarebbe meno oneroso per quanto riguarda Fiat rispetto ad andare da soli, quindi una notizia positiva che apre uno spazio importante per il mercato. Per quanto riguarda Salvatore Ferragamo, una bella prestazione oggi in borsa, più 4,7% in chiusura, qui indicazioni relative all'andamento dell'attività principale, in particolare nel quarto trimestre le vendite stanno segnando un'indicazione positiva, ha detto l'amministratore delegato Michele Norsa, in particolare sembra che il mercato cinese e quello americano dia le maggiori soddisfazioni e sta dando anche prospettive interessanti per il 2013. Ancora bene, come ricordavamo, oltre che Fiat e Ferragamo, anche Telecom Italia più 2,36%. Sì, qui si torna a parlare, si continua a parlare di questo network europeo delle TLC, oggi la conferma è arrivata dal commissario europeo del settore Neelie Kroes, che in un'intervista al Financial Times ha sostanzialmente confermato le indiscrezioni dello stesso giornale britannico per quanto riguarda appunto il progetto di un mercato unico paneuropeo delle telecom. Si potrebbe partire con forme di condivisione di infrastrutture telefoniche, accesso alla rete per altri utility, naturalmente è una notizia positiva per il mercato, bisognerà vedere le evoluzioni, ma questo sta permettendo a Telecom di recuperare un po' di terreno. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Concludiamo adesso l'approfondimento di borsa. Borsa oggi negativa rispetto alle altre borse europee, meno 0,60% Milano. Abbiamo già detto di Fiat, più 6,25, Ferragamo più 4,70, Telecom Italia più 2,30%, e invece è Azimut più 1,56%, Mediaset più 1,20%. Sul fronte opposto invece Generali meno 3%, ne parliamo fra un attimo. A2A meno 2,80%, Andrea Fontana, A2A. Sì, A2A ha sofferto come gli altri titoli che sono di società particolarmente indebitate. Oggi ricordiamo che anche sui bancari ha finito per pesare un po' il recupero dello spread e un rimbalzo abbastanza naturale sopra quota 260 punti, ha chiuso intorno a 264 punti. A2A appunto molto indebitata ne ha sofferto, ha perso il 2,9%, ma anche altri titoli indebitati di società indebitate come Finmeccanica hanno pagato, così come i bancari, UbiBanca meno 1,6, Monte dei Paschi meno 1,58, Banca Popolare di Emilia Romagna meno 1,57. Ancora tra i titoli Pirelli. Sì, per quanto riguarda Pirelli si è un po' spenta sul è finale. È vero, perché andava molto bene durante la mattinata. Esatto, la prospettiva per evitare una notizia che dovrebbe trovare conferma nelle prossime ore è la firma del rinnovo del patto di sindacato che raccoglie il 45% del capitale. Un patto di sindacato che verrà rinnovato solamente per un anno, a differenza dei consueti tre, ma diciamo, siccome l'accordo non era scontato tra una decina di azionisti che compongono questo patto, la possibilità di raggiungere l'accordo mette al riparo il titolo da eventuali vendite di pacchetti di azioni sul mercato. Ecco perché il mercato ha premiato il titolo oggi, peraltro dopo il calo che aveva interessato il titolo venerdì sull'abbassamento della raccomandazione da parte di Goldman Sachs, che aveva consigliato di vendere le Pirelli. In assoluto migliori e peggiori, Poligrafica San Faustino, un nome celebre durante il boom della New Economy, per chi si ricorda quegli anni, più 22,3% di Mail, più 11%, poi poco altro che Air Energy, più 6,56%. Fronte opposto, Banca Intermobiliare meno 7%, Mer Tecnimon meno 5,50%, primi sui motori meno 4,13%, L Venture Group meno 4,50%. Grazie Andrea Fontana, e noi invece restiamo in tema di borsa, perché ripeto, uno dei temi di questa giornata, la presentazione oggi a Londra del piano industriale delle Generali, il leone triestino. La borsa non l'ha premiato, ma qualche buona notizia, anzi più di una, arriva da questo piano. Il numero uno Mario Greco ha confermato, anzi ha annunciato, che sono esclusi tagli al personale e non vi sarà nessun calo dei dividendi. Un piano di maggiori ritorni per quello che è, lo ricordo, le Generali, il terzo gruppo assicurativo a livello europeo dopo Allianz e AXA. Ha seguito per il Sole 24 Ore la presentazione a Londra il collega Riccardo Sabatini. Riccardo, buonasera. Salve, buona serata. Dunque Riccardo, ti sentiamo leggermente basso, alziamo magari il volume del collegamento. No tagli, confermati dividendi, la borsa però il titolo ha perso il 3-1, è il peggior titolo del FTSE MIB e perdeva anche di più. Cos'è che può aver in qualche modo avuto un impatto negativo sugli investitori? Ma due aspetti in particolare. Il primo è banale, il titolo da quando è arrivato Mario Greco dal primo di agosto scorso ha guadagnato circa il 40-50%, sopravanzando l'indice di settore del doppio. Quindi una presa di beneficio in qualche misura era nelle aspettative. A renderla più robusta è stato anche il fatto che il piano non contiene, per la verità, molti dati. Ad esempio non vi sono indicazioni sui premi che il gruppo considera attendibili per i prossimi tre anni, e neppure ad esempio le indicazioni di efficienza tradizionali che pensa di conseguire nel settore da anni. Cioè, si è voluto mantenere le mani libere in attesa di dare maggiori informazioni al mercato quando lo riterrà più opportuno. Ugualmente anche sulle cessioni non sono state annunci particolari. Si è detto che ci saranno 4 miliardi di cessioni, ma nel concreto dove questi avverranno non è stato detto, ancora una volta, per evitare di legarsi troppo le mani. Ecco, quindi tu dici un po' generico, poche indicazioni sui premi e appunto anche sulle cessioni da 4 miliardi non si capisce dove. Per quello che riguarda le partecipazioni invece, Greco ha detto cioè, non è il nostro mestiere speculare sul mercato o essere un azionista strategico. Quindi il riferimento era alla partecipazione a molti parti di sindacato, no? Pirelli, Mediobanca, Rizzoli, Telecom, sì, ma anche su quello però non vi sono particolari novità, perché quella era una linea che il Generale seguiva dal febbraio del 2011, quando un consiglio di amministrazione su proposta di alcuni azionisti stabilì con precisione che non ci sarebbero più state nel gruppo partecipazioni strategiche se non nel settore direttamente assicurativo. Quindi poi sul merito non è che Greco ha annunciato dismissioni o vendite di partecipazioni, non so, in RCS o in Pirelli, niente di tutto questo. Per cui sì, il paradosso è di avere partecipazioni non più strategiche ma che durano per molto tempo. Sì, non più strategiche, insomma, di medio e lungo termine. Ecco, Riccardo, da questo punto di vista, nel patto Pirelli, ha detto Greco, siamo favorevoli a rimanere per un altro anno se il patto verrà accorciato, per RCS, Rizzoli, Corriere della Sera, valuteremo l'aumento di capitale se sarà interessante. E ci chiedono gli ascoltatori sui dividendi, mi sembra di poter dire che lui ha confermato nessun taglio sui dividendi. No, i dividendi rimarranno ancora intorno al 40% degli utili attesi e con una progressione man mano che questi utili attesi si consolideranno nel futuro. L'attenzione del gruppo è sul capitale. Gli obiettivi veri di questo piano, gli aspetti più interessanti, sono nel fatto che Generali vuole conseguire una posizione di capitale più robusta, acquistare una reputazione maggiore tra le agenzie di rating, conquistare una A in più che significa molte miliardi di debiti in meno nel suo bilancio. Quindi è quello l'aspetto importante. Nel futuro non vi saranno, nello scenario disegnato dai manager triestini, chissà quanti aumenti di crescita, di premi, eccetera. Gli obiettivi saranno sul profitto e sul capitale, per dare certezze agli investitori che comprano il titolo. Grazie a Riccardo Sabatini in collegamento da Londra per averci anche spiegato bene che cosa ha lasciato, mettiamola così, tiepidi gli investitori. Hai ragione a dire che il titolo molto era cresciuto in questi mesi, 46% non risultava come ultimo dato in borsa, e quindi un po' di realizzi ci stanno e poi un po' di vaghezza, mettiamola così, nel piano, poca precisione su dove arriveranno i tagli. La conferma che non vi sarà nessun taglio al personale, ma le cessioni quali saranno? Insomma, 4 miliardi non è poca cosa. Grazie a Riccardo Sabatini. E adesso c'è il traffico, poi torniamo per parlare invece dell'ultima notizia di oggi, il dato sulla produzione industriale. 15° mese di fila novembre che cala la produzione industriale italiana. Però, c'è un minimo di schiarita nel mese di dicembre, stando a quanto anticipato oggi dal Centro Studi Confindustria. Ultimo tema di questa puntata di Focus Economia. Mentre sta parlando Barack Obama, ha appena detto al Congresso: se il Congresso non alza il tetto del debito pubblico, l'America non sarà più in grado di onorare i suoi impegni, e c'è default. Allarme molto forte ce l'abbiamo in inglese, Barack Obama, sentiamo questo passaggio. It's been a busy and productive 4 years and I expect the same for the next 4 years. Sta parlando Barack Obama dei 4 anni, perché l'ultimo discorso da primo mandato e poi entrerà invece nel secondo mandato ha detto appunto: se la politica di Washington non si mette di traverso nella strada verso il progresso, l'economia nostra sta crescendo, le imprese stanno creando posti di lavoro, siamo pronti a un anno positivo se verranno prese decisioni sagge e se faremo i giusti investimenti. As I said on the campaign, one component to growing our economy and broadening opportunity for the middle class Ancora sono due anni che sto lottando per portare avanti questo piano, ossia ridurre il deficit di 4.000 miliardi di dollari nel prossimo decennio, e ciò stabilizzerebbe il nostro debito e deficit in modo sostenibile per i prossimi 10 anni. For nearly 2 years now I've been fighting for such a plan, one that would reduce our deficits by $4 trillion over the next decade, which would stabilize our debt and our deficit in a sustainable way for the next decade. E vedremo se ce la farà, soprattutto avere l'approvazione del Congresso sul cosiddetto fiscal cliff, il precipizio fiscale. Noi invece parliamo di altri precipizi, se posso usare questo termine, quello in cui da 15 mesi consecutivi sta piombando la nostra produzione industriale. Anche oggi lì è stato diffuso il dato, 15° ribasso consecutivo su base annua, meno 7,6% la produzione della nostra industria, meccanica meno 7% rispetto a novembre 2011, abbigliamento e calzature meno 5,5, chimica meno 5, farmaceutica meno 8, elettronica meno 5, alimentare meno 3,5, mezzi di trasporto meno 6,3%. Il che vuol dire che il calo acquisito nella produzione industriale da inizio 2012 è ormai del 6,6%. C'è però un po' di schiarita, mettiamo così, un leggerissimo ottimismo, e arriva dal centro studi della Confindustria. Luca Paolazzi, collega e che lo dirige, buonasera. Buonasera a tutti. Ho messo sotto fuga da New York, ma insomma, forse qui più che fuga da New York, la battuta sarebbe fuga dall'Italia. A parte gli scherzi, voi stimate un meno 6,2% in media nel 2012, ma con un leggero miglioramento a dicembre, ho capito bene Luca? Sì, consideriamo questo miglioramento un più 0,4% su novembre, dopo i cali consistenti per 3 mesi di fila superiori all'1% mensile, che tu prima hai già descritto, e quindi diciamo non è certo un segnale di inversione di tendenza, no, è semplicemente purtroppo un piccolo rimbalzo. Tuttavia pensiamo che sia anche, diciamo, congiuntamente ad altri indicatori, un'indicazione di rallentamento della caduta nei mesi a venire. Sì, ci scrivono alcuni ascoltatori, devo dire ormai da giorni, gennaio, mese da paura, il telefono non squilla, adesso io non è che possa ricordare tutti i messaggi che arrivano su Facebook o al 349-238-6666, però Luca, mi sembra di poter dire, che anche se spesso elogiamo quello che le nostre imprese riescono a fare sulle esportazioni, che le esportazioni non riescono nemmeno in parte a controbilanciare il calo della domanda interna, per quello che riguarda la nostra imprese. Questo per definizione è impossibile, le esportazioni pesano circa per il 30% sul PIL, i consumi per circa 2/3, gli investimenti diciamo sono al 18%, quindi è impossibile che le esportazioni da solo riescano a compensare una caduta della domanda interna, possono attenuare gli effetti recessivi, ma non certo compensarlo, quindi è sicuramente vero che c'è bisogno almeno di una stabilizzazione della discesa della domanda interna. Ci sono alcuni indicatori che dicono che è difficile proseguire lungo il trend osservato l'anno scorso, l'immatricolazione di auto nel 2012 sono tornate ai livelli della fine degli anni 70, ma il benessere degli italiani non è sceso così tanto, anche se consideriamo l'aumento della pressione fiscale. Come ho detto prima, il livello degli investimenti al 18% è un minimo storico sul PIL, il che significa di nuovo che a un certo punto bisognerà rinnovare i macchinari, e così come bisognerà rinnovare il parco auto, bisognerà rinnovare il parco elettrodomestici. È chiaro che questa è una fase di totale incertezza che si aggiunge a quella della congiuntura internazionale dovuta all'imminenza delle elezioni, e quindi sapere chi prevarrà e quali programmi metterà in campo per l'economia. Da questo punto di vista chi deve prendere decisioni rimane, diciamo, alla finestra. Teniamo un'altra considerazione in gioco, ed è il fatto che ci vuole del tempo prima che l'allentamento della morsa degli interessi sui titoli di Stato si trasmetta all'intera struttura del costo. Cioè il calo dello spread, dici, prima che il calo... Non è solo questione di spread, è proprio di livello di tassi di interesse. Mm-hmm. Lo spread può ridursi anche perché aumentano i tassi tedeschi, certo. Questo ci interessa poco, francamente. Noi preferiremmo una riduzione dello spread che avviene tutta grazie alla riduzione dei tassi italiani. Riduzione dei tassi sui titoli di Stato italiani sono stati su tutte le scadenze e quindi ci aspettiamo che migliorino le condizioni del credito in Italia sia per le famiglie che per le imprese, anche se ovviamente questo avviene con un certo ritardo. Le condizioni praticate dalle banche. E Luca, in queste settimane stiamo compiendo un ciclo di interviste, oggi un'altra, con amministratori delegati di grandi gruppi nella distribuzione. Oggi era il caso di Carrefour, che ha annunciato a sorpresa il taglio dell'IVA per certe categorie sociali, per tantissimi prodotti, altra misura per cercare di tenere i consumi o di non farli cadere troppo. E ogni volta chiediamo a questi amministratori delegati una ricetta, quasi diciamo da cittadini più che da amministratori delegati. Non ti nascondo che abbiamo visto persone chiedere piuttosto di aumentare le tasse alle imprese, ma ridurre il cuneo fiscale. Insomma, la preoccupazione di chi gestisce i grandi gruppi nella distribuzione in questo paese è sostanzialmente che, per quanti sconti, promozioni, pressioni sui fornitori loro possano fare, o qualcosa si inverte oppure non tengono più botta, perché insomma si trovano con dei numeri disastrosi, soprattutto al sud, fanno notare tutti. Il presidente Confindustria Squinzi su Sole 24 Ore ha dato, diciamo, quello che può essere manifesto degli imprenditori al nuovo governo. Da economista ti chiedo, visto che non possiamo reggere a lungo con questo calo, tu ti aspetti che vi sia una ripresa anche come rimbalzo più congiunturale, più tra virgolette automatica, o qui bisogna intervenire seriamente con politiche anticicliche, quindi antirecessive? Tre cose tutte valide. Come ho detto prima, sicuramente c'è da attendersi un rimbalzo legato anche al livello delle scorte in magazzino delle imprese, c'è da attendersi un rilancio delle esportazioni legato al risveglio della domanda cinese e al proseguimento della ripresa americana, anzi della sua accelerazione. Ci sono segnali di miglioramento in Germania. E questo, diciamo, dal punto di vista delle cose esterne, in un certo qual modo. Poi c'è una questione fondamentale: l'economia, il mercato viene orientato dalla fiducia, e la fiducia dipende crucialmente da quello che sta, diciamo, al timone del sistema economico e quindi dalla politica. Siamo passati attraverso un anno diciamo di lacrime e sangue per evitare il default, e questo avrebbe comportato, diciamo, un disastro molto più grande della recessione pur penosa e dolorosa, certo, nella quale siamo caduti. Adesso occorre però che si chiarisca il quadro politico. Per quello, diciamo, è stato un anno, diciamo, di politica tra virgolette sospesa, nel senso dei giochi politici. Ci sono le elezioni, credo che dopo le elezioni avremo sperabilmente un nuovo governo e una nuova politica economica, certo, e credo che questa politica economica, anche in base ai nuovi orientamenti del Fondo Monetario Internazionale e della stessa Unione Europea, sia più orientata alla crescita attraverso misure diciamo anticicliche. Luca, come dicevi tu prima. Se io fossi il Presidente del Consiglio, non ti preoccupare, abbiamo già un conduttore candidato in questa radio, qual è la prima cosa che mi chiederesti? Una? Non è possibile una sola, bisogna agire su tutte le leve, perché non c'è una singola misura in questo momento che sia in grado di portare alla svolta del paese. Ricordiamoci però un elemento fondamentale: questo è un paese povero di risorse naturali e ricco di lavoro. In questo senso è fondata la Repubblica sul lavoro, è un paese di trasformazione, e diciamo l'85% delle nostre esportazioni, quelle con cui paghiamo i nostri conti con l'estero, vengono dal manifatturiero, quindi fare perno sull'industria manifatturiera è la priorità. Grazie al direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Grazie a voi, buonasera. Allora, vedo molti messaggi, il telefono non suona. È una crisi di sistema. Ragazzi, nervi saldi, per ora non si vede, si vede molto poco. Speriamo che dopo le elezioni del fine febbraio si capisca un po' di più. Però nervi saldi, ci rendiamo conto leggendo i dati aggregati, parlando con gli amministratori delegati, ascoltando, leggendo i vostri sms e Facebook, che la situazione è stata difficilissima, a maggior ragione negli ultimi mesi del 2012. Di soli tagli così si muore, però i tagli servono, la spesa pubblica va contenuta. E poi speriamo che il prossimo Presidente del Consiglio si renda conto che di quanto il Paese soffre, lo dico senza nessuna retorica. Intanto noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni le auguro di un'altra buona serata. Comunque, vada. Radio 24. La passione si sente.